Bene, le 14, due minuti primi, 87.900 la modulazione di frequenza. Questa è Visionari, il consueto appuntamento settimanale con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più la scaletta è sul sito della radio www.ondarossa.info. Diamo inizio subito ai collegamenti con i nostri ospiti. Ed è con noi Joseph Peachen, regista del documentario Tra Terra e Cielo. Ben trovato. Ci sei? Pronto? Pronto? Mi senti? Ecco, adesso ti sento, ok. Okay. Allora, intanto il tuo documentario è stato presentato in un festival importante. Sì, il 51esimo Festival dei Pop di Firenze è uno, in Italia credo che sia uno dei riferimenti per quanto riguarda il cinema documentario. Certo, abbiamo sempre un occhio molto attento verso il Festival dei Popoli di Firenze. Allora, cominciamo per chi ci ascolta chiaramente a parlare del tema del tuo documentario. Sì, il tema è sulla medicina popolare. In realtà il documentario è nato nell'ambito di un progetto italo-francese sull'alimentazione e la medicina naturale, che sono una tematica che oramai interessa sempre più gente, e quindi nell'ambito ci sarà la realizzazione di un museo, di diversi eventi anche legati a questa tematica, e all'interno di questo progetto mi è stato chiesto di realizzare un documentario su questo tema. Rispetto alla medicina, alle cure, mi vengono in mente subito due elementi. Il primo è che le industrie farmaceutiche ormai sono dei colossi multinazionali e determinano anche le politiche spesso degli stati nei confronti delle popolazioni, penso soprattutto a quelle più povere, e dall'altra c'è un forte fiorire di medicina alternativa e naturale che però rischia a volte di diventare un business. Sì, hai riassunto abbastanza bene quello che è venuto fuori dalle mie ricerche, nel senso che io sono partito un po' alla cieca, perché ero molto interessato da tanto tempo, però non avevo una preparazione specifica, e quindi sono andato a documentarmi soprattutto tramite libri, ma anche soprattutto tramite internet, e lì ho scoperto effettivamente che il nuovo business dell'industria farmaceutica, ma non solo, è il naturale, nel senso che la sintesi, i farmaci di sintesi fanno sempre, come dire, si vendono sempre di meno, tra virgolette, si vendono ovviamente, ma sempre di meno. C'è un business che si sta creando proprio sul naturale. Allora ho cercato di documentarmi, capire che cosa stava dietro questo naturale, e lì sono rimasto abbastanza sorpreso, nel senso che anche in tante erboristerie in cui si trovano dei prodotti che non vengono neanche distribuiti nell'ambito degli ipermercati, dei supermercati, ma proprio esclusivamente in erboristeria, perché hanno un'immagine così molto naturale, andando scavando dietro ci si accorge che di naturale, sì, hanno di naturale, ma forse 0,01%, e il resto è tutta chimica. Mm-hmm. Quindi in realtà il packaging è molto naturale, insomma è tutta un'immagine naturale, ma il vero naturale in realtà, ahimè, purtroppo non, cioè è quasi impossibile trovarlo. Il naturale si trova nelle persone che hanno un rapporto diretto col territorio. Ecco, proprio in questo senso, l'aspetto positivo, ecco, di questo ritorno alla medicina naturale è che molte persone arrivano a determinare da sé, per se stesse, la cura, la propria cura, e a riscoprire anche un rapporto con le, sia che con le piante, con i prodotti della terra, che possono essere curativi, e quindi anche una riscoperta delle tradizioni in questo senso. Sì, esattamente, una riscoperta della tradizione, ma anche del rapporto con se stessi, con la natura, e anche a livello di individuo, nel senso che io sono andato, ho seguito diverse persone, soprattutto due qui sul territorio, ed erano persone che avevano non solo un'ottima conoscenza di quali sono le piante curative, ma avevano anche un rapporto al loro corpo diverso, nel senso che era fondamentale, ho scoperto, anche l'alimentazione. Prima ancora di curarsi c'è la prevenzione. Sì. E tutte queste persone valorizzavano tantissimo l'orto di casa, il rapporto con l'individuo anche. C'è un rapporto diverso. Sono due persone completamente diverse, ma uno di questi personaggi, che all'inizio l'ho scartato, perché? Perché lavorava in un'azienda come responsabile marketing, e poi aveva un atteggiamento completamente diverso quando la seguivo nella natura, insomma, alla ricerca di queste piante. E lei mi ha detto che questo rapporto con la terra, che gli ha fatto anche riscoprire che cosa non funzionava nel suo modo di essere. Ha detto: fino a qualche anno fa puntavo su essere il manager numero uno, puntavo su una carriera, puntavo su tutto quello che mi raccontava il management, e poi ho avuto dei problemi di salute, ho riscoperto me stesso tramite anche questa ricerca che ho fatto sulle piante, ma anche su me stesso, anche questo rapporto sull'alimentazione e anche su un'altra qualità di vita, nel senso che ho dato un taglio forse alla mia carriera. Non ha più accettato in qualche modo questo diktat delle nostre società, ma per riscoprire un altro stile di vita. Non è stato facile, però ci è riuscito, e devo dire che questo è stato anche possibile con questo rapporto immediato che questa persona ha potuto avere col territorio, riscoprendo antiche ricette di sua madre, di suo papà, che aveva un po' dimenticato, ecco, perché era andata su un'altra strada. Certo. Che sembrava più interessante, ma poi in realtà si è resa conto che era importante cambiare stile di vita. Quindi è tutto collegato in realtà. Io parto dalle piante per parlare anche del nostro rapporto alla vita. Mm-hmm. Oh, Joseph, dicevi prima della tua zona, ecco, dove hai effettuato questa ricerca? Allora, io l'ho effettuato principalmente in Valle d'Aosta. Sì. Perché parto dal territorio, seguendo due persone, ti accennavo di questa persona femminile, di questa figura femminile, e un'altra maschile totalmente diverse, ma perfettamente inserite nel territorio valdostano. E poi sono andato a cercare anche il lavoro di un chimico, di un professore dell'Università di Pavia, che lavora professore nella facoltà di farmacia, e specializzato nella medicina tradizionale dei Pigmei del Camerun, e mi sono reso conto che non c'era non c'era una grandissima differenza tra i miei personaggi della Valle d'Aosta e questi Pigmei del Camerun. Sono in qualche modo la stessa conoscenza e la stessa filosofia di vita. E l'aspetto interessante è che questo professore di farmacia, quindi di formazione chimico, è da più di 15 anni che ogni anno va proprio in queste tribù, vive diversi mesi con loro, e lui mi dice... mi ha un po' in qualche modo mi ha fatto capire pur essendo lui chimico, quanto ci fosse di in qualche modo di sfruttamento di queste popolazioni dall'industria, ecco. E volevo che fosse anche qualcuno che fosse all'interno, che non fosse qualcuno completamente da fuori. E quindi è una sorta di percorso nelle popolazioni, che siano in Valle d'Aosta, che siano in Pigmei, con legame anche di questo professore che ha una competenza, che pur essendo chimico comunque ci fa capire l'importanza delle tradizioni e di essere legato a un territorio per poter avere questi saperi legati alle piante. Joseph, un'ultima domanda. Sì. Questa trasmissione dei saperi avviene attraverso anche una ricerca bibliografica o viene tramandato oralmente attraverso l'esperienza? Allora, principalmente viene tramandato tramite l'oralità. Sì. Molte volte tra madre e figli, padre e figli, proprio all'interno della famiglia. E poi quando una persona arriva a avere un certo livello di conoscenza, poi arricchisce il proprio sapere con dei libri e anche andando a scambiare esperienze con altre persone che hanno lo stesso tipo di sapere. Quindi sono due livelli: primo livello la conoscenza orale, secondo livello la conoscenza tramite i libri e anche per quanto riguarda uno dei miei personaggi, tramite internet adesso, sempre di più. Joseph, per saperne di più, il tuo documentario, c'è qualche cosa in rete? E poi volevo chiederti se prossimamente c'è la possibilità di vederlo da qualche parte, se è trasmesso in televisione oppure distribuito in qualche sala. Allora, lo scopo è quello di è un documentario che è stato realizzato in modo artigianale, con pochi mezzi, fuori dai circuiti tradizionali, quindi lo scopo è quello, a partire dal prossimo anno, di cominciare una piccola distribuzione in sala in modo artigianale, che quindi chiamare gli esercenti e cercare di mettere una proiezione o due nelle principali città italiane. Okay. Quindi ancora non so esattamente quando, ma probabilmente a partire dal mese di febbraio del prossimo anno ci sarà una piccola, ovviamente molto piccola, ma una piccola distribuzione artigianale e poi spero un secondo tempo anche la televisione. Va bene, allora un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Che crepo, che crepi, scusa, e anche da parte mia, insomma, in bocca al lupo per la vostra trasmissione. Grazie, a presto, ciao. A presto, ciao. Joseph Peaken, regista del documentario Tra terra e cielo. Proseguiamo. Con noi Ciro Colonna, co-regista del documentario Affari d'acqua, cronache dall'idroscalo di Ostia, ben trovato. Ben trovati a voi, grazie di averci invitato alla vostra trasmissione. Allora Ciro, si parla di, prima eravamo in Val d'Aosta, ora arriviamo sul litorale romano, all'idroscalo di Ostia, di cosa parla il vostro lavoro? Dunque, il documentario che appunto, come dicevi, insieme a me hanno contribuito moltissimo a produrre Valerio Serafini e Kissinje Karkamoa Wojtyth, parla dell'idroscalo di Ostia non in termini romantici. Sappiamo insomma che l'idroscalo è stato teatro della morte di Pierpaolo Pasolini, noi ci discostiamo un po' da questa da questa vicenda, non per prendere le distanze, ma per raccontare quello che è l'Idroscalo oggi, vale a dire un agglomerato urbanistico sicuramente irregolare, sicuramente nato nell'illegalità, nell'abusività, ma dove ormai vivono da decine di anni centinaia e centinaia di persone che sono molto radicate sul territorio e ci tengono molto a questo posto. E abbiamo avuto la sfortuna, la fortuna, la sorte in qualche misura di incrociare durante il nostro percorso all'Idroscalo un periodo particolare, perché il porto turistico che è stato costruito qualche anno fa lì accanto ha delle mire espansionistiche, diciamo così, e per cui gli abitanti dell'Idroscalo si sono trovati nella situazione, parliamo all'incirca di un anno fa, di dover difendere quelle che sono le proprie case, difenderle contro poteri, ahimè, molto più organizzati, forti e radicati di loro, e con molti più agganci e capacità di influire sulle istituzioni. Parliamo insomma di una cordata, quella che gestisce il porto turistico, che a cui fanno capo grossi imprenditori locali, persone che hanno grosso potere sugli stabilimenti, che sappiamo che a Ostia sono un potentato fondamentale. Per cui insomma abbiamo cercato di raccontare questo percorso delle persone di Idroscalo nel cercare di affermare un proprio diritto acquisito nel rimanere a casa propria. Ci tengo a dire che non è stato un percorso lineare, insomma noi non raccontiamo nel nostro documentario, perché non è quello che abbiamo vissuto, non è quello che abbiamo visto, non raccontiamo la lotta del popolo tra virgolette contro il potere, dove il popolo è tutto buono e il potere è tutto cattivo. La nostra storia, la nostra visione perlomeno insomma di questa vicenda è molto più spuria, molto più ricca di ambiguità, di chiaroscuri. Chiaramente anche all'interno degli abitanti ci sono una serie di spaccature, di divisioni interne, di piccoli grandi interessi che vanno a confrontarsi e spesso a scontrarsi. È una storia che non ha un lieto fine, insomma alla fine del documentario noi raccontiamo anche lo sgombero parziale dell'Idroscalo, in cui le ruspe buttano giù una prima fila di case che sta proprio di fronte al mare, con il pretesto della messa in sicurezza dell'area. E è una storia tuttora aperta, perché noi rimaniamo in contatto con gli abitanti, con molti dei quali siamo entrati in rapporti di amicizia o comunque di solidarietà, e è una storia che va avanti. I comitati continuano a formarsi, a cercare di portare alla luce questa vicenda, che è una delle tante vicende che parla del problema abitativo a Roma, perché l'Idroscalo è comune di Roma, certo, per quanto sia molto lontano. È un posto un po' molto particolare, perché è periferia di Ostia, che a sua volta è già periferia di Roma, quindi insomma è una storia tutta da seguire, un posto assolutamente affascinante, con mille ambiguità, non per far diciamo un'estetica del degrado, perché questo non ci appartiene, però è un posto che merita essere conosciuto senz'altro. Oh Ciro, ecco, come accennavi all'inizio, è una comunità nata sulla base dell'emarginazione, nel senso gente proveniente da più insomma allontanata in qualche modo dalla città, e comunque proveniente da altri luoghi, ma comunque sempre sotto il segno dell'emarginazione, se non sbaglio. Beh, diciamo che inizialmente la storia è molto particolare, perché inizialmente era l'Idroscalo, era il primo aeroporto di Roma, è stato, parliamo di prima della Seconda Guerra Mondiale naturalmente, inizialmente il posto è stato abitato da romani, molti testaccini a quanto ci ha raccontato tra l'altro, che hanno costruito lì delle baracchette che utilizzavano sostanzialmente come casa, come seconda casa, come casa per le vacanze, per i fine settimana. Poi progressivamente dagli anni 60 e 70 soprattutto ha cominciato ad accogliere molta gente emarginata, come giustamente dicevi, emarginata a priori, perché molti di loro erano, come in tante borgate romane, erano meridionali anziché sardi, c'era una grossa comunità di sardi che in questa metropoli che andava formandosi non trovavano uno spazio adeguato. Fino a non moltissimi anni fa Little Scala era abitato quasi esclusivamente da italiani, poi come in tutto il paese l'arrivo massiccio di persone da altri paesi, molti nordafricani, poi chiaramente dall'est Europa, insomma seguendo i flussi che hanno caratterizzato l'ingresso dei migranti in Italia in termini più numerosi. E, sì, emarginazione in un certo senso è una parola che si addice a quel posto, e d'altra parte però c'è anche da dire che c'è una forma di vita collettiva che probabilmente in altre parti della città non si ritrova, e anche in altre periferie non si ritrova. È una periferia molto molto particolare questa, mm-hmm. perché proprio come conformazione è una sorta di piccolo villaggio e a contatto con mare, fiume, in un posto che potenzialmente, insomma, è per questo anche che il porto ha i suoi interessi, potenzialmente ha degli sviluppi straordinari dal punto di vista turistico. Immaginiamo cosa potrebbe essere lì, un piccolo villaggio turistico che accoglie le navi da crociera o qualcosa del genere, insomma. Per cui è un posto che da un lato richiama quello a cui fa riferimento te, e dall'altro in realtà è quasi un piccolo angolo incantato, insomma, senza voler esagerare. Però senz'altro rispetto alla sua condizione, come dicevo prima, di periferia di una zona della città che già di per sé è periferica, sicuramente è molto particolare, perché già Ostia in sé è Roma e non lo è. I cittadini di Ostia, molti di loro perlomeno, si considerano romani, al tempo stesso sanno bene che Ostia è città in sé. E immaginiamo cosa vuol dire questo riferito a un posto che è molto distante rispetto alle distanze di Ostia, dal centro di Ostia stessa, e immaginiamo anni luce dal centro di Roma, insomma. Mm-hmm. Ciro, tu parlavi all'inizio della scusa della messa in sicurezza e di potenzialità turistiche, ecco, quali grossi progetti ci sono dietro all'idroscalo? Dunque, i progetti non sono mai stati apertamente palesati. Sì. Noi nel documentario abbiamo avuto la possibilità di intervistare uno dei responsabili del porto turistico, una persona molto vicina alla proprietà e che gestisce tutta la sicurezza e ha contribuito a progettare il porto stesso. Queste persone, fuori dai denti, ma non in maniera ufficiale, anche se poi nell'intervista del documentario questa cosa viene palesata, parlano apertamente, insomma, del fatto che un'espansione del porto con un altro braccio oltre quello già importante che esiste potrebbe permettere di accogliere barche e imbarcazioni della portata maggiore di 60 metri di lunghezza, cioè parliamo di navi sostanzialmente, non di barche private. Sì, ci saranno anche, ma non è quello poi. Per cui l'ipotesi che un po' tutti fanno è che veramente si voglia trasformare l'idroscalo, che appunto sta proprio sulla foce del Tevere, tra foce del Tevere e mare, in un punto di prima accoglienza, chiamiamola così, per queste navi. Per cui se parte dell'agglomerato di abitazioni dovesse rimanere nei progetti, insomma, di queste persone, che poi sono sostenute dal comune, in tutto ciò c'è una lotta intestina con il municipio, cioè la situazione è molto intricata, però se parte del villaggio dovesse rimanere con delle persone che ci abitano, verrebbe trasformato probabilmente in una sorta di villaggio folcloristico integrato all'interno di una situazione più commerciale, per cui da quel punto lì poi si potrebbero immaginare barche che vanno verso il centro. Però insomma, al di là di questi che sono forse dei dettagli, la cosa fondamentale è che su quell'area lì qualcuno ci ha messo gli occhi e le amministrazioni non si sono mai preoccupate per quello che abbiamo potuto vedere noi. Abbiamo seguito decine di riunioni, incontri pubblici e non, insomma, ci siamo stati molto dentro. Le istituzioni non si sono mai preoccupate di quello che è il futuro delle persone che abitano lì. Per fare un esempio, rispetto allo sgombero di cui parlavo prima, che è avvenuto nel febbraio del 2009, nel 2010, scusami, rispetto a quello sgombero, le persone che sono state mandate via senza alcun preavviso ufficiale sono arrivate alle ruspe la mattina, e con uno spiegamento di forze dell'ordine impressionante, cioè c'erano qualcosa come tra gli 800 e i 1000 tra carabinieri, finanzieri e poliziotti in assetto antisommossa, oltre a una quantità di vigili urbani di polizia municipale spaventosa. Queste persone, senza aver ricevuto nessun preavviso, sono state mandate via dalla loro casa, che è stata immediatamente demolita. Queste persone sono state mandate in un residence sull'Ardiatina, in un posto veramente fuori dal mondo. Tutte persone che hanno lavoro, figli a scuola, tutti sul territorio di Ostia, ovviamente. Mm-hmm. E queste persone da allora sono ancora lì, cioè è passato quasi un anno. Mm-hmm. E nessuna soluzione reale, plausibile viene immaginata per loro. Allo stesso modo per tutti gli altri che il comune, il municipio, il porto stesso, insomma, già hanno preannunciato che in qualche modo progressivamente dovranno andare via, sono state ventilate delle ipotesi di poter costruire delle case in una zona limitrofa, però insomma di concreto non c'è nulla. Io penso che il nodo fondamentale sia questo, insomma, perché le persone che vivono lì hanno nel bene e nel male, con mille ambiguità e chiaroscuri, come dicevo prima, hanno vivono insieme e hanno è un piccolo microcosmo, è una comunità composita, articolata e per niente lineare, però è una comunità che vive lì. E smembrarli e non immaginare un futuro insieme che sia anche sullo stesso territorio è un po' riprodurre le logiche che abbiamo visto in questa città purtroppo imperare nei decenni, per cui quando queste persone danno fastidio vengono mandate via, sparpagliate dove sia, creando altre sacche veramente a quel punto di ulteriore emarginazione e povertà e sofferenza e disagio sociale, insomma. Mm-hmm. Questo è quello che noi pensiamo sia il nodo cruciale, al di là di quello che poi vada veramente a insistere su quell'area, che poi si può ragionare concretamente se è più o meno sicura, se è più o meno possibile metterla in sicurezza. Questi insomma sono anche dati tecnici sui quali mi addentro fino a un certo punto, perché non ne ho le competenze. Certo. Ciro, in conclusione, per chi volesse saperne di più tra la rete e invece programmazione di proiezioni o quant'altro? Dunque, il documentario non è ancora integralmente in rete perché sta girando per festival. Sì. Noi abbiamo un contatto Facebook, che è il contatto su cui si possono trovare tutte le informazioni sul documentario e i nostri riferimenti per chi volesse contattarci, che è semplicemente Affari d'acqua, cronaca del libro scalo di Ostia. Cercandolo su Facebook si può trovare facilmente. Stiamo organizzando delle proiezioni prossimamente in una serie di spazi romani, oltre a quelle che abbiamo già fatto all'uscita del documentario, e doveva esserci un'iniziativa ad Ostia che gli abitanti stanno organizzando presso la biblioteca del Samorante proprio ora in dicembre. Proprio per dare visibilità a questa che è il loro percorso di lotta, chiamiamolo così. E l'iniziativa è saltata per problemi logistici, verrà riproposta probabilmente nei primi mesi dell'anno prossimo, e noi abbiamo messo a disposizione il nostro lavoro, insomma, per quel poco che può servire, insieme a tanti altri che hanno svolto lavori fotografici o quant'altro di simile sul territorio. Benissimo. E per il momento questo è quanto. Allora, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Crepi il lupo, grazie a voi e buona giornata. Ciao. Ciao, grazie. Ciro Colonna, co-regista del documentario Affari d'acqua, cronache dall'idroscalo di Ostia. Proviamo a parlare di festival. Allora è con noi Flaminia Cardini, co-regista del documentario La politica del desiderio, benvenuta. Benvenuta anche a te, grazie. Allora, il tuo documentario è stato presentato al Festival del Cine di Roma, se non sbaglio. Sì. E io partirei subito dal bel titolo. Il titolo è vero, è molto bello. In realtà è tratto da un libro di una autrice che si chiama Lia Cigarini, che ha in qualche modo voluto questo documentario insieme con la nostra casa di produzione L'Altra Vista. Lei fa parte della Libreria delle Donne di Milano e avevano voglia appunto di raccontare questa storia del femminismo che fa leva proprio sul desiderio e sul desiderio delle donne e sul desiderio di libertà che hanno, piuttosto che su diciamo più il tema delle rivendicazioni o dei diritti negati e comunque sempre diciamo in agenda. Questa era un po' la chiave del nostro documentario, cercare di raccontare come invece un gruppo di donne negli anni 60, quindi ormai tantissimi anni fa, hanno desiderato partire da un altro presupposto, quindi probabilmente fare anche un lavoro di ricerca su se stesse, confrontandosi con le altre donne. Eh sì, io la prima cosa che mi è venuta in mente, visto che stiamo parlando di anni 60 e poi negli anni 70 per esempio il movimento autonomo fece proprio la politica della politica dei bisogni. Sì. E questo mi interessava, questo passaggio alla politica del desiderio. Sì, perché appunto a un certo punto loro si sono rese conto che diciamo l'orizzonte della parità era un orizzonte in qualche modo imposto, sì, imposto dagli uomini, quindi come dire, anche il desiderio era diciamo inscritto in quel limite. Sì. E invece a furia di incontrarsi, di parlarsi, di conoscersi, hanno scoperto che i loro desideri avevano altre origini e andavano in altre direzioni. E quindi la ricerca si è spostata su quello, cioè invece che pensare di essere uguali agli uomini, valorizziamo le differenze, cioè valorizziamo i nostri desideri, i nostri bisogni. Questo mi sembra un po' la chiave di questo documentario. Ecco, cioè, Flaminia, dove... Vai, scusa, ti ho interrotto. No, dico mostrare che esiste questa differenza e che questa differenza non è contro nessuno, quindi anzi va nella direzione di un'apertura e di un dialogo con l'altro sesso e quindi anche di una crescita comune. Ecco, su quali storie vi siete concentrate? Dunque, senti, noi abbiamo cominciato soprattutto da Milano e quindi proprio dalle prime pioniere del femminismo della differenza negli anni 60, come ti dicevo, e lì ci sono appunto Daniela Pellegrini, la Lia Cigarini che ho già citato, Luisa Muraro, che hanno cominciato a fare questo percorso nuovo che nasceva diciamo dall'autocoscienza e quindi da un legame con gli Stati Uniti, che avevano inventato questa modalità di rapporto. E quindi anche poi il discorso del separatismo, del fatto di stare solo tra donne, che all'epoca era una assoluta novità. E dopodiché abbiamo cercato di seguire però lo sviluppo di questo pensiero e di questa pratica un po' in giro per tutta Italia, quindi siamo state non so, a Catania, dove c'è un gruppo che è ancora attivo adesso, a Lecce, dove appunto varie donne si incontrano e fanno progetti culturali, così come anche a Foggia. Insomma, abbiamo cercato anche di trovare dei luoghi forse meno segnati diciamo dal femminismo in Italia. Siamo stati a Verona tantissimo, dove c'è anche un'università molto molto viva e molto attiva, quindi lì poi sono nate tante imprese di giovani che ancora con quell'eredità stanno immaginando anche un modo di lavorare e di entrare in relazione con la realtà differente. E questo insomma era un po' l'obiettivo, quindi anche di far vedere che il femminismo non è finito, non è morto, ma continua e e ha un suo sviluppo e un suo valore anche per le giovani generazioni. Ecco, proprio in tal senso, rispetto ai presupposti, quelli del desiderio e della differenza, che sviluppi ha avuto il femminismo nel corso del tempo e che differenziazioni anche delle posizioni? Ma c'è un pezzo secondo me molto bello di questo documentario in cui Luisa Muraro dice che in realtà, diciamo, il giusto anelito all'uguaglianza si valorizza grazie proprio al dare invece senso e peso alla differenza. In realtà molto spesso questi due, diciamo, filoni del femminismo sono stati visti in contrapposizione. Quindi c'è appunto un femminismo di piazza che rivendica diritti uguali, parità, e poi invece c'è il femminismo della differenza che fa un lavoro, diciamo, più culturale, più ideologico. E onestamente, diciamo anche da osservatrice, nel senso che io non sono tra le protagoniste di questa esperienza, ho avuto la sensazione che questo femminismo che in qualche modo chiede alle donne di interrogarsi costantemente su se stesse e su come si agisce, su come si cresce, forse riesce a entrare in contatto più profondo con la realtà, probabilmente meno visibile, cioè meno, non so, cioè non ci sono 2 milioni di persone in piazza, però ha veramente modificato nel profondo le vite delle donne che lo praticano. Nel lavoro, nella vita di relazioni, nel sociale, ecco, il documentario un po' racconta anche questo. Questo e fa anche vedere che c'è un legame tra le storiche e le giovani di adesso, che sono in qualche modo attratte da questo modo di vivere e di pensare, perché alla fine è una rivoluzione molto profonda e molto tenace. Poi immagino, dai luoghi che mi dicevi anche che interessano il nostro meridione, lì è stato ancora più rivoluzionario come modalità, o sbaglio? Beh, sicuramente, ovviamente. Devo dirti che lì c'è anche un bel segnale, perché tante donne e tanti uomini stanno lavorando insieme. Per esempio mi viene in mente la Città Felice, che è questo gruppo di Catania che lavora molto appunto su una città difficile, complessa, con tante contraddizioni come appunto Catania, e in cui proprio i modi del femminismo sono diventati patrimonio anche degli uomini. E quindi per esempio c'è poi tutta anche una ricerca fatta per scoprire la differenza maschile, insomma, che non è poi così scontato come approccio. Flaminia, per avere informazioni sul vostro lavoro, sul vostro documentario, come penso per esempio a internet? Sicuramente lì, vabbè, chiaramente c'è il sito dell'Altra Vista, che è la nostra casa di produzione, dove si possono trovare tante informazioni, ma la bella notizia è che è già uscito in home video. Quindi c'è un DVD, tra l'altro distribuito appunto dalla Libreria delle Donne di Milano, che ha anche un piccolo librino a cura di Clara Giurdan, che un po' racconta anche molti luoghi e persone del femminismo italiano. E in più c'è anche una parte sulla Spagna, che è abbastanza interessante, perché ha un legame molto forte con l'Italia, soprattutto Barcellona. Benissimo, allora mi sembra che ci hai dato un quadro esaustivo, e in bocca al lupo e a presto. Preti, grazie, ciao, buon lavoro. Ciao, ciao. Thank you. bene, con noi Gianluca Deserio, regista insieme a Massimiliano del documentario Bachroman, è giusto la pronuncia? Bachroman, con l'accento sulla A. Bachroman. Allora, esatto. Intanto benvenuto e poi allora, spiegaci subito di cosa si tratta. Ma Bachroman è un film che abbiamo girato l'anno scorso, è un viaggio all'interno di una comunità inedita, una comunità di ragazzini di strada che vanno dai 6 ai 22 anni, il più grande, il presidente, ha 24 anni, ed è una sorta di sindacato di ragazzi di strada che hanno deciso di auto-organizzarsi senza nessun aiuto di organizzazioni internazionali, eccetera, e di auto-costituire questa associazione per difendersi innanzitutto dagli abusi e dalle violenze che ogni giorno subiscono, e soprattutto per aiutarsi a vicenda per uscire probabilmente un giorno, si spera, dalla strada. Allora, quindi dall'autodifesa fino a una prospettiva di futuro, questo è un po' il senso di questo sindacato che hanno creato. Esatto, è un modo solidale per combattere questa lotta quotidiana contro la fame, la sete, la violenza, ma poi in realtà quello che noi abbiamo scoperto insieme a loro è la vita che c'è in mezzo, no? Mm-hmm. E quindi anche i sogni, le speranze, la volontà di diventare un giorno delle persone normali, come spesso loro dicono di voler diventare. Mm-hmm. Oh, come siete venuti a conoscenza di questa storia? Ma noi eravamo in Burkina, a Ouagadougou, a capitale, per fare un altro film, un altro documentario, diciamo, più istituzionale, su commissione. E semplicemente nella nostra permanenza lì, quella settimana, abbiamo conosciuto il presidente di questa associazione, un ragazzo, appunto Tasseré, di 24 anni, che ci ha raccontato questa esperienza straordinaria, che era nata da poco, in realtà da circa un anno, e quindi abbiamo deciso di conoscere gli altri ragazzi. Vi ricordo che i ragazzi sono circa 600 in tutto, quindi sono tantissimi. Noi li abbiamo conosciuti praticamente circa 200 e abbiamo deciso che valeva la pena di essere raccontato una storia del genere, ma non solo per noi, ma anche per loro, perché abbiamo capito che poteva essere uno strumento per loro per essere visibili, no? Per essere riconosciuti in quanto associazione, in quanto gruppo esistente, e non come spesso si definiscono questi ragazzi, degli invisibili della nostra società. Mm-hmm. Quindi diciamo che il problema più grande che hanno loro è proprio questo di essere riconosciuti a livello istituzionale, cioè la città, la città di Ouagadougou non li considera, non li aiuta, loro non hanno un punto di riferimento con cui dialogare. Quindi questo documentario, abbiamo capito insieme a loro, che poteva essere anche uno strumento nelle loro mani per affermarsi e per venire alla luce. Oh, ecco, tra l'altro va detto anche che il vostro Bachroman è stato presentato al Festival di Torino e ha ricevuto anche riconoscimenti. Sì, ha vinto il primo premio come miglior documentario italiano al Festival di Torino. Sì. E poi volevo chiederti, ecco, rispetto a questo sindacato auto-organizzato, come si è strutturato, come funziona, cosa fa? Ma la struttura è alquanto sorprendente, perché diciamo che loro si sono divisi in 11 siti, come li chiamano loro, che sono 11 zone dove si raggruppano i ragazzi per dormire, per cercare il cibo durante il giorno, no? Sì. E sono 11 siti che si distribuiscono in tutta la periferia del Ouagadougou, che è molto grande come città, molto estesa, e quindi sono anche lontani tra di loro. Ogni sito ha uno chef, un capo, che di solito è il ragazzo che è da più tempo sulla strada, quindi conosce meglio il modo per riuscire a cavarsela, ed è anche magari il più grande stesso. E questo chef cosa fa? Semplicemente raccoglie, ogni chef di ogni sito raccoglie quelli che sono i problemi, le domande, le richieste dei singoli ragazzini. E poi c'è una sede centrale, che in realtà è una specie di cortile sgangherato in un posto dimenticato da Dio, dove loro si riuniscono ogni giorno, tutti questi chef di vari siti, e dibattono, discutono su come risolvere i problemi dei singoli ragazzi. Quindi ogni chef in pratica funziona da portavoce degli altri. Esatto, da portavoce. Poi c'è anche una specie di membro direttivo, di membri di comitato direttivo, diciamo così, no? Con termini occidentali. In realtà sono loro, li chiamano maestri, e sono semplicemente dei ragazzi molto giovani, anche loro di 21-22 anni, che sono usciti da pochissimo dalla strada e che hanno deciso insieme di rimanere però in mezzo alla strada per aiutare gli altri ragazzi, e quindi costituiscono una specie di gruppo di coordinamento che coordina i vari chef, quindi una struttura si può dire piramidale, dove però molto democratica, no? Dove la parola è protagonista e attraverso la parola i ragazzi discutono, risolvono i problemi e sopravvivono, no? Poi si emancipano anche grazie alla parola. Oh, hanno avuto una loro riconoscibilità tramite questo modo di organizzarsi a livello istituzionale, penso, o anche a livello del resto della popolazione? Ma diciamo che loro sono anche visivamente organizzati, nel senso che si sono fatti fare grazie degli aiuti di singole persone, delle casacche con addirittura un loro logo, no, con una scritta, perché hanno capito l'importanza proprio dell'aspetto visivo, no? E grazie a questa struttura si può dire che in qualche modo hanno incominciato ad avere una propria hanno incominciato a discutere con le istituzioni. Il problema è che è veramente molto difficile per le istituzioni locali accettare la presenza di un sindacato, di gente che non, in realtà non sa neanche, spesso questi ragazzi non sanno neanche quanti anni hanno, no? Come si chiamano, perché sono usciti di strada o si sono trovati per strada che erano magari molto piccoli, quindi a volte i nomi si inventano anche una propria identità, no? per essere qualcuno. Mm-hmm. Quindi sono proprio degli invisibili, delle ombre che si aggirano nella città, e questo sicuramente non aiuta a livello istituzionale, per questo che il film pensiamo, speriamo che possa essere veramente un modo per loro per poter dialogare, come dire, degnamente con le istituzioni. Oh, riescono a far presa anche sugli altri, su chi vive la loro stessa condizione? Diventano un punto di riferimento? Sì, guarda, è una cosa veramente impressionante, come soprattutto il presidente Tasserè, questo ragazzo ha un carisma molto molto forte, e poi ormai li conosce tutti, cioè proprio conosce nome per nome tutti i 600 e passa, perché poi in realtà sono di più ragazzi di strada, quindi in realtà loro si riconoscono tra di loro, e quando trovano qualcun altro che è nella loro stessa condizione, lo invitano e gli fanno capire che è importante l'associarsi, è molto importante. Per esempio nel film, in Bakloman, c'è tutta una sequenza girata in uno dei siti più, diciamo, più messi male di tutti, che è il sito dove vivono le prostitute, perché ci sono anche delle ragazze di strada che naturalmente rispetto agli altri fanno più, diciamo, fanno meno difficoltà a trovare lavoro, se si può chiamare lavoro, perché fanno tutte le prostitute, ecco. E in questo sito dove vivono e lavorano queste ragazze molto giovani, loro fanno più difficoltà ad associarsi, proprio perché hanno già un lavoro, molte sono già mamme, magari a 17 anni, 16 anni, anche di meno, hanno già dei bambini, quindi per loro proprio l'idea di associarsi è più difficile. C'è tutta una sequenza nel film in cui il presidente di Tasserè invita le ragazze a capire l'importanza, no, di mettersi insieme, perché un giorno potrebbero uscire da questo tunnel in cui sono finite, potrebbero cominciare a fare dei lavori diversi, no? Ed è una delle scene madri del film, nel senso proprio letterale del termine. C'è una mamma che non ha più latte praticamente, perché non ha cibo, e quindi non può più allattare la piccola Jasmine, che è una bambina appena nata, ed è per noi l'abbiamo voluta inserire perché era un po' come simbolicamente la madre di tutti questi Bakloman, ecco. Oh, Gianluca, prossimamente avremo modo di vederlo? Certo, il film uscirà nelle sale a marzo. Ah, bene. E chiaramente sarà una distribuzione, purtroppo come si sa, i documentari certo, in Italia certo. veramente una realtà difficile da vedere, però in ogni caso ci sarà una piccola distribuzione un po' in tutta Italia. A Roma c'è stata già una proiezione l'altra sera al cinema Farnese, ma a marzo sarà poi distribuita credo al Nuovo Aquila Roma, adesso non ricordo sinceramente. Allora avremo modo sicuramente di riparlarne con voi. Grazie, benissimo. Grazie mille. Allora un abbraccio in bocca al lupo. Crepi il lupo e un abbraccio a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao. Grazie, ciao ciao. Gianluca Deserio insieme a Massimiliano, suo fratello, registi del documentario Bacroman. Avremmo dovuto parlare anche con Steve Della Casa, direttore dell'ottava edizione di Cinema e Lavoro. Cinema e Lavoro a Terni è in corso dal 13 fino al 19 dicembre, ma non riusciamo a contattarlo. Comunque per saperne di più basta cercare in rete. Ripeto, Cinema e con la E commerciale e E con la E accentata Lavoro. Cinema e Lavoro a Terni dal 13 al 19 dicembre è l'ottava edizione. Siamo in collegamento sempre in ambito di festival con Piero Clemente, co-direttore del Film Festival Cinema e Immigrazione a Roma fino al 19 dicembre, poi si sposterà a Sant'Oreste dal 20 al 22 sempre di questo mese. Pronto, ci sei? Eccomi, sì, ci sono. Allora, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano intanto. E un bel ritrovato a te. Grazie, dall'autostrada per la Puglia. Stiamo andando a Bari a fare una proiezione anche. Allora, l'idea di questo festival e poi anche le opere che saranno presentate. Allora sì, ma guardate, l'idea, come sapete, insomma, il cinema, il Festival del Cortometraggio di Siena, come dire, è in ibernazione finché l'amministrazione della città non deciderà se riprenderci o meno, e però insomma, come dicono, come i pugili a riposo ci prudono le mani, a noi invece ci prudono le idee, si prude la voglia di fare il cinema. E quindi abbiamo messo in campo questo programma sull'immigrazione. Ma sull'immigrazione perché comunque insomma è un tema che è sempre d'attualità, che ci riserva sempre delle sorprese in negativo rispetto a quella che è la, come dire, la cronaca quotidiana, e in positivo invece rispetto insomma ai bei film che troviamo nella produzione, non solo nazionale. Molti film del programma di quest'anno, di questo festival, sono di origine africana, spesso di origine maghrebina. Però ieri sera siamo partiti invece con... Quante sono le opere presentate nel complesso? Sono una cinquantina le opere presentate tra lunghi e corti, e documentari e film di finzione. Ieri per esempio siamo partiti con un film d'animazione che è una riproposta, perché è un film che ci piace tantissimo, che è Una giraffa sotto la pioggia, che è fantastico, un cortometraggio francese di 12 minuti che l'abbiamo già presentato l'anno scorso nella rassegna Resistenza del Festival di Siena, però è un cortometraggio che ci piace moltissimo, quindi l'abbiamo riproposto. Ma poi dopo abbiamo visto il bellissimo film di Whisper, quindi un film italiano che è Sotto il cielo azzurro, azzurro. E, l'abbiamo avuto ospite, è stato da voi, Edoardo? Sì, telefonicamente, però insomma ne abbiamo parlato di questo documentario quando fu presentato. Bello. E niente, poi insomma continuiamo oggi con Black Sushi, no, Black Sushi non è non ne ho. Sì, sì, oggi giovedì. Oggi c'è Sul mare luccica, che è un cortometraggio che partecipò alla prima edizione del Festival di Siena, è un film di Paolo De Vita e Mimmo Mancini. Poi c'è Black Sushi, che è un cortometraggio sudafricano di 22 minuti, che, come dire, vede come vede il sushi un ragazzo di colore che vive in Giappone. E poi invece c'è l'ultimo documentario di Andrea Segre, Il Sangue Verde. Di Sangue Verde ne abbiamo parlato proprio con lui. Sì. È fantastico. Sì. È il documentario su Rosarno. E poi continuiamo sempre stasera con Iceberg 5. Iceberg 5 è un cortometraggio di Rolando Colla, che è un regista svizzero che di Iceberg ha fatto una miniserie, una serie di cortometraggi sulla più che altro sul rigetto da parte degli svizzeri nei confronti degli immigrati, non proprio sul razzismo, ma proprio sulla difficoltà ad accettarli. E quindi, insomma, parla sempre di situazioni drammatiche dei sans-papiers, insomma, delle persone che hanno difficoltà ad entrare o a vivere a volte in Svizzera. Piero, ti volevo chiedere, per quanto riguarda il programma, per chi vuole saperne di più, su internet c'è un sito a disposizione? Sì, sul nostro sito, quello storico del festival, c'è rimasta, che è www.cortoitaliacinema, tutta una parola, tutto minuscolo, .com. Ormai c'è rimasta solo la storica lettera del sindaco di Siena che ci licenziava e da ieri il programma di questo festival. Benissimo. Chi può, non dimentichi anche di passare a Sant'Oreste, che è un borghetto molto molto carino, e devo moltissimo all'ospitalità di Fabio Galadini, che è il direttore artistico del teatro. Il festival, come sempre, è organizzato da me e da Barbara Bielkowska, e quest'anno con la collaborazione di una new entry del nostro festival, che è Gina Annunziata, che è stata preziosissima nella redazione delle schede e tutto il resto. L'ingresso è gratuito. Perfetto. Come sempre per queste cose, e guardate, arrivare al cinema dei piccoli è un regalo per tutti, perché poi si sta bene, un bel posto, certo. Un posto fantastico. Bene, Piero, allora in bocca al lupo e ci sentiamo per la prossima avventura. grazie a voi, un abbraccio, vi aspetto, ciao. Oh, ce la dovremmo fare a sentire la nostra Patrizia Salvatori. Patrizia, eccoci qui. Ciao Federico, buonasera, anzi buon pomeriggio a tutti, ancora sera ci vuole. Insomma. Abbiamo ancora qualche minuto per parlare con te, e sai che quando parliamo di documentari, di storie di documentari, ci affascia, quindi rimaniamo stregati e rimaniamo a parlarne per un bel po', e quindi il tempo poi alla fine è sempre benissimo, poco. E fate benissimo, tra l'altro Alphaville fra poco, alla fine di gennaio, dedicherà un'intera settimana al documentario italiano, quindi sarà una bella cosa, insomma, anche noi daremo un contributo piccolino, insomma, bene, però bello, bene. Ecco, poi ne racconteremo dopo. Allora, Cineclub Alphaville, la rassegna Untitled, fino al 19 dicembre, partita ieri, di cosa si tratta? Dunque, è una rassegna che abbiamo, diciamo, pensato in collaborazione con Arteria, che è uno studio di pittura di giovani ragazzi, appunto, al Pigneto, in via Brancaleone 13. Insieme abbiamo pensato di raccontare un po' la figura dell'artista pittorico, però un po' a modo nostro, cioè una figura, insomma, un po' particolare, che nel corso dei secoli ha avuto varie attenzioni da parte della società in cui ha operato, no? e quindi abbiamo pensato di far vedere una serie di film. Tanto per fare un esempio, ieri abbiamo fatto vedere l'Andrei Rublev di Tarkovsky, questo per dare un'indicazione, insomma abbiamo iniziato alla grande per far vedere proprio come l'artista è stato considerato nel corso dei secoli dalla società che lo, alla quale appunto dedica, alla quale dedicava l'arte, la sua arte in quel periodo storico, ed abbiamo notato come l'artista nel corso del tempo ha avuto o attenzioni enormi, grande rispetto e via discorrendo, oppure addirittura insomma è stato considerato un regno e via discorrendo anche questo, fino ad arrivare alla società contemporanea in cui invece l'artista spesso non lo è nemmeno artista. Ed infatti l'ultimo film appunto in programmazione in questo studio di pittura Arteria in via Brancaleone 13 sarà il film L'Artista, che uscì qualche anno fa, un anno e mezzo fa, dove appunto c'è un signore, un infermiere che non c'entra assolutamente niente con l'arte, ma che improvvisamente si trova ad essere il più grande artista contemporaneo in pratica, no? E questo la dice lunga sulla rapporto appunto che anche un certo tipo di società, un certo tipo di operatore del sistema arte crea attraverso appunto suoi legami con economia eccetera eccetera, dando vita a grandi eventi e grandi personalità che poi magari alla fine invece in fondo non hanno questa attitudine artistica così superlativa. E però insomma tutto questo lo facciamo vedere nel corso di queste 5 giornate che sono giornate appunto dedicate a vari pittori della storia dell'arte, insomma molto importanti. Certo ne avremmo potuti mettere di più, ma come sapete i giorni sono sempre 5, quindi insomma alla fine, tant'è che stasera facciamo vedere Pollock diretto da Ed Harris appunto, che si dedica proprio alla figura di questo pittore, ma faremo vedere anche il film di Elio Petri, Un tranquillo weekend di campagna con Franco Nero in una crisi depressiva che si rifugia appunto in questo casolare. Faremo vedere anche un occhio, insomma avremo un occhio attento anche sulla pittura orientale con Ezio di Donne di Pittura, e faremo vedere anche il Mister Picasso di Clouseau, l'unico vero film dedicato alla pittura seriamente nella storia del cinema, perché è una sorta di documentario, tanto per tornare Federico ai documentari, in cui praticamente il Clouseau appunto diciamo riprende Picasso che sta per dare inizio e poi completare un'opera pittorica. Chiaramente poi ci sono dettagli nel montaggio per non fare lo slip di Andy Warhol, quindi quelle ore tremende in cui non sai che cosa fare, guardi soltanto lo schermo fisso, però insomma sono tutti film, opere che ci fanno guardare da vicino l'artista, non soltanto però in quanto artista ma anche in quanto uomo, alle prese appunto con tutti quelli che sono i problemi legati al momento storico in cui cerca di operare. Ecco, questo è quanto. Bene. Poi faremo vedere anche cortometraggi Dada e surrealisti, e anche qualche cortometraggio d'autore, qualcuno di quelli dedicato per esempio a Van Gogh, insomma adesso vediamo, però ce ne abbiamo tanti nel carnaio, quindi in questi giorni insomma faremo vedere un po' di tutto. Benissimo, allora per il programma rimandiamo al sito del Cineclub Alphaville e ci sentiamo per la prossima rassegna. Naturalmente, senz'altro, vi auguro un buon pomeriggio anche a te Federico, a presto, ciao. Bene, siamo in chiusura, ora la seconda società. Visionari torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni sulla scaletta le trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari per l'appunto. Buon proseguimento, a giovedì prossimo.